Era una stanza assai vasta, che non potevo abbracciare tutta con l'occhio perché la illuminava un'unica candela piantata in una chicchera rotta. C'era intorno un pessimo odore. Giuseppe era seduto con indosso una camicia sgualcita, senza cravatta, presso la tavola dove era la candela e leggeva dei giornali. Di fronte a lui il 19enne Luciano stava curvo sul piano della tavola e scriveva. Tra l'uno e l'altro v'erano delle stoviglie con avanzi di cibo. In fondo alla stanza, nel buio, si stava lavando della biancheria. Ciac-ciac si udiva. Qualcuno maneggiava con fanatico zelo un asse da lavare. Si udiva il diguazzare dell'acqua. Faceva un caldo da morire. Giuseppe? Dissi io per farmi sentire. Giuseppe si scosse. È venuto qualcuno? Era l'incerto francese di Madame Bonaparte. Il ciac-ciac sull'asse da lavare cessò. La madre di Napoleone entrò nella luce della candela e si asciugò le mani nel suo grande grembiale. Sono io, Eugenia Clary. Allora, Giuseppe e Luciano gridarono insieme. Per l'amor del cielo, che cosa è accaduto? Hanno arrestato Napoleone. Per un momento si fece un silenzio di morte. Poi Madame Bonaparte gemette. Santa Vergine Maria! La voce di Giuseppe si fece cupa. Me l'aspettavo, me l'aspettavo! E Luciano proruppe. È una cosa terribile! Mi fecero accomodare su di una sedia sgangherata e dovetti raccontare tutto per filo e per segno. Da una stanza vicina entrò in quel punto il fratello Luigi. Ha 16 anni ed è molto grasso e stette ad ascoltare senza batter ciglio. Fui allora interrotta da un fracasso d'inferno. Si spalancò l'uscio e il piccolo Gerolamo, il fratello di Napoleone che ha appena 10 anni, si precipitò dentro. Dietro di lui, rincorrendolo, entrò Carolina che ha 12 anni, lanciandogli le più pittoresche ingiurie che corrono nel quartiere del porto. Si azzuffò con lui a causa di qualcosa che il ragazzo stava cacciandosi in bocca. Madame Bonaparte diede uno schiaffo a Gerolamo e sgridò in italiano Carolina. Tolse a Gerolamo ciò che questi voleva mettersi in bocca e poiché risultò che si trattava di una pasta di marzapane, ne fece due pezzi e ne diede uno a Gerolamo e l'altro a Carolina. Poi gridò: Zitti, abbiamo una visita. Carolina allora s'accorse di me ed esclamò: Oh, una delle ricche Clary! Dopo ciò s'avvicinò alla tavola e si sedette sulle ginocchia di Luciano. Che terribile famiglia, pensai. E subito mi pentii di averlo pensato. Non ne hanno colpa, certo, se sono tanti e se sono così poveri, e se non hanno altra stanza di soggiorno che la loro cucina. Giuseppe, intanto, prese a interrogarmi. Chi ha arrestato Napoleone? Erano proprio dei soldati? Non era invece polizia? Erano soldati, risposi io. Allora lui non si trova in prigione, ma in qualche luogo destinato agli arresti militari, concluse Giuseppe. Che differenza c'è? Gemette Madame Bonaparte. Una differenza grandissima, spiegò Giuseppe. Le autorità militari non faranno senz'altro giustiziare un generale, ma lo deferiranno prima a un tribunale militare. Voi, signorina, non potete immaginarvi come tutto questo sia terribile per noi, mi disse Madame Bonaparte. Accostò uno sgabello da cucina, si sedette vicinissima a me e posò nella mia la sua mano umida e deformata dal lavoro. Napoleone è il solo tra noi che guadagni regolarmente qualche cosa ed è sempre stato attivo e parsimonioso e mi ha sempre dato la metà del suo stipendio per gli altri ragazzi. È una disgrazia, una grossa disgrazia. Almeno adesso non mi potrà più costringere ad arruolarmi, saltò su il grasso Luigi. Quasi ci aveva gusto lui, perché malgrado i suoi 16 anni, il grasso Luigi non ha mai fatto nulla e Napoleone voleva farne un soldato, non fosse altro che per togliere una bocca dalla mensa materna. Soltanto non riesco ad immaginarmi come Luigi potrebbe fare le marce con quei suoi piedi piatti, ma Napoleone voleva forse metterlo in cavalleria. Ma perché poi lo hanno arrestato? Domandò Madame Bonaparte. Napoleone conosceva Robespierre, mormorò Giuseppe, e i suoi piani pazzeschi li ha fatti consegnare con intenzione da lui al ministro della guerra. Quelle follie. Gli angoli della bocca di Giuseppe tremavano nervosamente. Politica, sempre politica, gemette Madame Bonaparte. Signorina, io vi dico che la politica è la rovina della mia famiglia. Già quella buon'anima, il padre dei miei figli, si impicciava sempre di politica e perdeva le cause dei clienti e non ci ha lasciato altro che debiti. E adesso che cosa odo io ogni giorno dai miei figli? Ecco, Bisogna cercarsi degli appoggi, bisogna conoscere Robespierre, bisogna farsi presentare a Barras e avanti di questo passo. E dove si finisce per questa strada? Batté nervosamente il pugno sul desco. Si finisce in carcere, signorina. Io chinai la testa. Vostro figlio Napoleone è un genio, madame. Sì, purtroppo, rispose lei stizzita e fissò la fiamma vacillante della candela. Io mi rizzai sulla persona. Noi dobbiamo trovare il modo di sapere dove è stato condotto Napoleone e poi cercare di aiutarlo, dissi e guardai Giuseppe. Ma noi siamo povera gente. Non abbiamo relazioni, piagnucolò Madame Bonaparte. Io però non cessavo di guardare Giuseppe. Il comandante generale di Marsiglia deve sapere dove è stato condotto Napoleone, disse allora Luciano. Nella sua famiglia Luciano passa per un poeta in erba e per un incorreggibile sognatore, ma la prima proposta pratica ci venne proprio da lui. Come si chiama il comandante militare di Marsiglia? Domandai io. Lafabre. Colonnello Lafabre, disse Giuseppe, e vede Napoleone come il fumo negli occhi. Recentemente Napoleone ha detto il fatto suo a questo vecchio perché le nostre fortificazioni si trovano in uno stato deplorevole. Andrò io domani da lui. Udii che dicevo improvvisamente: Signora Bonaparte, favorite preparare un po' di biancheria e magari qualche cosa da mangiare. Fate un bel pacco. Andrò dal signor colonnello e lo pregherò di farlo avere a Napoleone e poi gli domanderò. Grazie tanto, signorina, grazie tanto, esclamò Madame Bonaparte. Nello stesso momento udimmo un grido, schizzò per aria dell'acqua e seguì un urlo prolungato. Carolina annunciò esultante. Mamma, Gerolamo è cascato nel mastello! Mentre Madame Bonaparte salvava dal mastello il suo figlio più piccolo e poi lo scapaccionava a dovere, io mi levai in piedi. Giuseppe scomparve per andare a prendere la sua giacca, voleva accompagnarmi a casa. Luciano mormorò: Siete tanto buona, Mademoiselle Eugenia, noi non lo dimenticheremo mai. Io intanto pensavo che avevo una tremenda paura ad andare da questo colonnello Lafabre. Quando mi congedai da Madame Bonaparte, ella mi assicurò: Vi manderò Paulette domattina col pacco. E allora pensò subito: Dov'è Paulette? Aveva detto che voleva andare con Elisa da un'amica che abita qui dirimpetto e che sarebbe rincasata dopo mezz'ora, e invece le due ragazze mi restano di nuovo fuori tutta la sera. Mi venne allora in mente la faccia imbellettata di Elisa. Elisa se la spassava certamente col suo cavaliere in qualche osteria e Paulette ha esattamente la mia età. Poi Giuseppe ed io camminammo l'uno accanto all'altra senza dir parola attraverso la città. Io pensavo a quella sera quando mi aveva accompagnato a casa per la prima volta. Sono passati davvero appena poco più di 4 mesi da quella sera. Allora è incominciato tutto. Fino a quel momento ero stata una bambina, anche se mi immaginavo di essere una donna. Oggi so che non si è donna se non quando si vuole terribilmente bene ad un uomo. In nessun caso lo potranno ghigliottinare, disse Giuseppe quando fummo giunti presso la nostra villa. Era questo il risultato delle meditazioni alle quali egli si era abbandonato durante il nostro lungo silenzio. Tutt'al più, questa è la legge dell'esercito, lo potranno fucilare. Giuseppe! I contorni del suo viso spiccavano nettissimi nel lume di luna. Lui non lo ama, mi passò per la mente. No. Lui non ama questo suo fratello, lo odia addirittura, invece. Lo odia perché Napoleone è più giovane di lui e tuttavia ha saputo procurargli un impiego. Lo odia perché Napoleone lo ha incoraggiato a sposare Giulia, perché Napoleone. Ma noi siamo uniti, disse ora, Napoleone, Dio e gli altri fratelli e sorelle, saremo uniti, tanto nella buona che nell'avversa fortuna. Beh, buonanotte, Giuseppe. Buonanotte, Eugenia. Entrai in casa inosservata. Giulia era già a letto, ma la candela del suo comodino era accesa. Mi aveva aspettata. Sei stata dai Bonaparte, non è vero? Domandò. Sì, risposi e incominciai a svestirmi in fretta. Abitano in una stamberga e Madame Letizia la sera tardi lava le camicie. E Gerolamo, quel ragazzo impossibile, è caduto nel mastello e credo che le due ragazze, Elisa e Paulette, la sera se ne vadano in giro con gli uomini. Buonanotte, Giulia. Buon riposo. Alla prima colazione Stefano disse che Giulia doveva rimandare le sue nozze perché lui non vorrebbe avere come cognato un uomo il cui fratello è stato arrestato per sentimenti giacobini. Sarebbe una vergogna per la famiglia e farebbe molto male alla reputazione della ditta. Giulia incominciò a singhiozzare e disse: «Mai e poi mai si dovrà rimandare il giorno delle mie nozze!» E andò a chiudersi a chiave nella nostra camera. A me nessuno parlò di questa faccenda tranne Giulia. Credo che Maria sappia tutto. Dopo la colazione, Maria entrò in stanza da pranzo e mi fece un segno. Io andai in cucina e vi trovai Paulette col pacco. «Presto, andiamo prima che qualcuno ci veda», le dissi. Stefano sarebbe stato preso da un accesso di furore se avesse saputo che intendevo presentarmi a un'autorità con un pacco di mutande destinato al detenuto Napoleone Bonaparte. Io ho trascorso a Marsiglia tutta la mia vita e Paulette invece è arrivata qui appena da un anno, ma lei è assai più pratica di me e sapeva esattamente dove si trova il comando militare. Per tutta la strada non ha fatto altro che parlare. Camminava dimenando le anche per modo che la sua gonna, piuttosto lisa, d'un colore azzurro violento, ondeggiava di qua e di là. Stava ritta e impettita e sporgeva il seno in fuori. Il suo seno è assai più sviluppato del mio, sebbene siamo coetanee, e ad ogni momento si passava la lingua aguzza e rossa sulle labbra per inumidirle e renderle splendenti. Poletta ha lo stesso naso sottile di Napoleone. I suoi capelli, d'un biondo scuro, sono tutti ricciuti e lei se li annoda all'insù con un nastro azzurro. Si è ridotta le sopracciglia, facendone una linea sottile, e vi ha passato sul carboncino. Io trovo che Paulette è molto bella, ma il sospetto è tale che mia madre non sarebbe affatto contenta che la gente mi vedesse insieme con lei. Quello laggiù è il comando militare. Devo venire con te? Scossi il capo. Credo sia meglio che vada a parlare io sola. Ma tu mi aspetti, no? Raccomandati alla provvidenza per me. Fai il segno del buon augurio. Ella accennò di sì con grande serietà e si segnò. Appoggiò le dita della mano destra sul pollice. Reciterò anche un paternostro, non può far male, disse. Mi strinsi addosso il pacco, mi diressi a grandi passi verso il comando militare e udii poi la mia voce che aveva un suono rauco e strano. Pregare il capoposto di annunciarmi al colonnello Lefabre. Quando fui condotta nella stanza nuda, dove presso un grande scrittoio sedeva il massiccio colonnello, non riuscii da principio, per la grande agitazione, a proferire parola. Il colonnello aveva una faccia quadra, rossa, con la barba grigia, mal rasata, e portava un'antiquata parrucca col codino. Io posai il pacco sullo scrittoio, trangugiavo disperata la saliva e non sapevo che cosa dire. «Che cosa c'è in quel pacco, cittadina? E chi siete voi, per favore?» «Mutande, cittadino colonnello Lefabre, e io mi chiamo Clary.» I pallidi occhi azzurri del colonnello mi squadrarono dalla testa ai piedi. «Ah, una figlia del defunto negoziante di seterie Francesco Clary?» Feci cenno di sì. «Col papà ho giocato qualche volta a carte. Era un uomo molto rispettabile, il vostro signor padre.» E non cessava di fissarmi. «E che cosa ne dovrei fare di queste mutande, cittadina Clary?» «Il pacco è per il generale Napoleone Bonaparte, che è stato arrestato. Noi non sappiamo dove si trovi, ma voi, signor colonnello, lo saprete certamente. Credo che nel pacco ci sia anche una torta, biancheria e torta.» «E che interessi ha la figlia di Francesco Clarì col giacobino Bonaparte?» domandò il colonnello con voce lenta. Mi sentii venir caldo. «Suo fratello Giuseppe è fidanzato a mia sorella Giulia», dissi, e trovai che era una risposta geniale. «E perché non viene suo fratello Giuseppe o vostra sorella Giulia?» I chiari occhi azzurri guardavano severi e non mi abbandonavano un sol momento. Ebbi l'impressione che egli sapesse tutto. «Giuseppe ha paura. I parenti di chi è stato arrestato hanno sempre un po' di paura», buttai fuori. «E Giulia in questi momenti ha ben altro da pensare che a questo pacco. Piange perché Stefano, il nostro fratello maggiore, adesso non vuole più che lei sposi Giuseppe Bonaparte. E tutto questo perché...» Ero così furiosa che non riuscivo più a dominarmi. «E tutto questo perché voi avete fatto arrestare il generale, cittadino colonnello.» «Sedetevi», disse lui soltanto. Mi sedetti sull'orlo di una sedia che si trovava accanto al suo scrittoio. Il colonnello tirò fuori una tabacchiera e fiutò un pizzico. Poi guardò fuori dalla finestra. Sembrava che mi avesse dimenticata. Improvvisamente si volse di nuovo verso di me. «Ascoltate, cittadina. Vostro fratello Stefano naturalmente ha ragione. Un Buonaparte non è certo un partito per una Clary, per una figlia di Francesco Clary. Era un uomo veramente rispettabile, il vostro defunto signor padre. Io tacevo. Non conosco questo Giuseppe Bonaparte. Non è nell'esercito, vero? Ma per quanto riguarda l'altro, questo Napoleone Bonaparte. Generale Napoleone Bonaparte, dissi io, buttando il capo all'indietro. Sì. Per quanto riguarda questo generale, non l'ho fatto arrestare io. Ho semplicemente eseguito un ordine del Ministero della Guerra di Parigi. Bonaparte gode simpatie giacobine e tutti gli ufficiali della sua idea, voglio dire tutti gli elementi estremisti dell'esercito, sono stati arrestati. E che cosa ne sarà di lui? Di questo non sono stato informato. E poiché il colonnello fece un gesto come per dirmi che dovevo congedarmi, io mi levai in piedi. La biancheria e la torta, dissi e indicai il pacco. Potreste consegnarglieli? È assurdo, Bonaparte non è più qui. È stato tradotto al Fort Carré presso Antibes. A questo non ero preparata. Lo avevano condotto via, non potevo raggiungerlo. Ma deve pur avere della biancheria per cambiarsi, dissi goffamente. La sua faccia rossa svaniva davanti ai miei occhi. Mi asciugai le lacrime, ma ne vennero delle altre. Oh, non potete mandargli il pacco, signor colonnello. Sentite, figliuola, credete proprio che io non abbia altro da fare che occuparmi delle mutande di uno scalzacane in grigio-verde che porta il titolo di generale? Singhiozzai. Egli prese ancora un pizzico di tabacco. Evidentemente la scena lo turbava. Smettetela di piangere, disse. No, singhiozzai. Si levò da dietro il suo scrittoio e venne accanto a me. Smettetela di piangere, ho detto. Ruggì. No, singhiozzai ancora una volta. Poi mi asciugai le lacrime e lo guardai in faccia. Era in piedi vicino a me e i suoi occhi azzurri chiarissimi luccicavano smarriti. Non posso sopportare le lacrime, disse impacciato. E io invece ricominciai subito a piangere. Smettetela, gridò, smettetela. Ebbene, visto che non vi date pace, che, ecco, manderò il pacco per uno dei miei soldati al Fort Carré e pregherò il comandante di farlo avere a questo Bonaparte. Siete contenta? Cercai di sorridere, ma le lacrime mi disturbavano e tirai il fiato su per il naso. Avevo già la mano sul saliscendi dell'uscio quando mi ricordai che non l'avevo neppure ringraziato. Mi voltai. Il colonnello era in piedi davanti al suo scrittoio e guardava accigliato il pacco. Tante grazie, signor colonnello, sussurrai. Egli alzò gli occhi, si schiarì la gola e disse: Sentite, cittadina Clary, vi devo dire in tutta confidenza due cose. La prima, che questo generale giacobino non ci rimetterà la testa. La seconda, che Buonaparte non è un partito adatto per la figlia di un Francesco Clary. Arrivederci, cittadina. Paulette mi accompagnò per un tratto verso casa. Ci calava come la cascatella d'un mulino. Seta rosa, trasparente. Dicono che la Tallien porti delle calze di seta color carne. Napoleone sarà molto contento della torta. Ci sono delle mandorle. Ti piacciono le mandorle? È vero che Giulia avrà una dote così ricca che potrà comprare una villa per sé e per Giuseppe? Quando potrai parlare a Stefano della mia stoffa e quando potrò venire in negozio a prenderla? Io non stavo a sentirla. Mi ronzavano per il cervello come una sentenza, come una coppia di versi, le parole del colonnello. Bonaparte non è un partito adatto per la figlia di Francesco Clary. Quando giunsi a casa, seppi che Giulia l'aveva spuntata. Le sue nozze non saranno rimandate. Sedetti accanto a lei in giardino e l'aiutai a ricamare il monogramma sui tovagliolini. Un bel B slanciato. B. È sempre B. Marsiglia, fine di Frutti d'Oro, metà di settembre. Non so come Giulia abbia trascorso la sua notte nuziale. Comunque quella prima delle nozze è stata una notte terribilmente agitata, almeno per me. Il matrimonio di Giulia avrebbe dovuto essere celebrato senza rumore e soltanto nella cerchia della nostra famiglia e degli innumerevoli Bonaparte. Mamma e Maria naturalmente non hanno fatto altro da più giorni che cuocere delle torte e rimescolare delle creme di frutta. E la sera prima delle nozze mamma per poco non cadeva in deliquio per il timore che le cose non fossero a punto. Prima dei pranzi, mamma è sempre preoccupata, ma finora tutto era andato bene. Si stabilì che tutti andassero a letto presto e prima di coricarsi, Giulia doveva ancora fare il bagno. Noi facciamo il bagno assai più spesso degli altri perché papà aveva idee assolutamente moderne e mamma vuole che noi continuiamo a vivere secondo i suoi principi, perciò facciamo il bagno quasi ogni mese in una grande tinozza di legno che papà ha fatto collocare a questo scopo nella lavanderia giù in cantina. E siccome era la vigilia delle nozze di Giulia, mamma ad un tratto versò del profumo di gelsomino nell'acqua del bagno e a Giulia sembrava di essere la buon'anima di Madame Pompadour in carne e ossa. Andammo a letto, ma né Giulia né io riuscivamo ad addormentarci, così incominciamo a parlare della nuova casa di Giulia. Si trova fuori di Marsiglia, tuttavia non è lontana da noi più di mezz'ora di carrozza, ma ad un tratto ammutolimmo e stemmo in ascolto. Le jour de gloire est arrivé. Qualcuno fischiava questo motivo sotto la nostra finestra. Io sobbalzai. Era la seconda frase della nostra marsigliese, ma anche il segnale di Napoleone. Quando veniva a farci visita, si annunciava sempre, già di lontano, fischiettando questo motivo. Balzai dal letto, aprii le tendine, spalancai la finestra, mi sporsi fuori. Era una notte molto buia ed afosa, opprimente. C'era un temporale nell'aria. Serrai le labbra e fischiai. Ci sono pochissime ragazze che sappiano fischiare a dovere. Io sono una di quelle, ma purtroppo non si apprezza questa mia capacità e si trova che non è conforme alle buone regole. Le jour de gloire, fischiettai. Arrivé, mi fu risposto di sotto. Una figura che si era avvicinata al muro della casa si staccò nel buio e avanzò sul sentiero ghiaioso. Dimenticai di chiudere la finestra, dimenticai di infilarmi le pantofole, dimenticai di mettermi addosso qualche cosa, dimenticai che ero vestita di una semplice camicia da notte, dimenticai ciò che è conveniente e ciò che non lo è, e corsi come una forsennata giù per le scale, aprii la porta, sentii le pietruzze del sentiero sotto i miei piedi nudi e sentii poi la sua bocca sul mio naso. Era in realtà molto buio e al buio non si può trovare il punto giusto per baciare. Da lontano si udivano dei tuoni. Egli mi strinse a sé e mi bisbigliò: «Non hai freddo, carissima?» E io risposi: «Solo ai piedi perché non ho le pantofole». Allora egli mi sollevò da terra e mi portò fino alla scalinata davanti alla porta di casa. Là ci mettemmo a sedere ed egli si tolse il cappotto e mi ci ravvolse. «Da quando sei tornato?» volli sapere. Mi rispose che non era ancora veramente tornato, ma era in cammino verso la casa di sua madre. Appoggiai la guancia alla sua spalla, avvertii la ruvida stoffa della sua uniforme e mi sentii felice. «Te la sei vista brutta?» domandai. «No, affatto. Intanto ti devo ringraziare per il pacco. L'ho ricevuto con un biglietto d'accompagnamento del colonnello Lefabre. Scriveva che me lo mandava soltanto per accontentarti». Dicendo questo mi sfiorò i capelli con le labbra. Poi disse subito: «Ho chiesto di essere deferito ad un consiglio di guerra. Non hanno accolto neppure questa mia preghiera». Levai il capo e lo guardai, ma faceva così buio che potevo vedere soltanto i contorni del suo viso. «Un consiglio di guerra?» dissi. «Sarebbe terribile». «Come?» «Io avrei avuto la possibilità di spiegare ad alcuni ufficiali di grado elevato di che cosa si tratta. Avrei detto che piani ho fatto rimettere da Robespierre a quell'idiota ad un ministro della guerra e almeno mi avrebbero ascoltato». Invece adesso si staccò un poco da me e si prese la testa fra le mani. Adesso invece i miei piani si coprono di polvere in qualche archivio e il ministro Carnot crederà di fare chissà cosa, seppure il nostro esercito riuscirà a stento e a fatica a difendere le nostre frontiere. E adesso che cosa vuoi fare? Ah, mi hanno rimesso in libertà perché non c'è niente a mio carico, ma sono mal visto dai signori del Ministero della Guerra. Mal visto, capisci? Così mi comanderanno al settore più insulso di tutta la nostra frontiera e... Piove! Lo interruppi. Le prime gocce mi cadevano sul viso. Non fa nulla, disse meravigliato, e incominciò a spiegarmi tutto ciò che si può fare a un generale quando lo si voglia silurare. Io ritrassi le gambe e mi ravvolsi più stretta nel suo cappotto da generale. Ricominciò a tuonare e si udì il nitrito di un cavallo. Il mio cavallo! L'ho legato alla cancellata del giardino, spiegò lui. Incominciò a piovere più forte, guizzò un lampo, il tuono brontolava paurosamente da presso, il cavallo nitriva disperato. Napoleone lanciò un richiamo alla bestia. Di sopra a noi stridette una finestra. Chi c'è? Gridò Stefano da sopra. Vieni in casa, qui ci bagniamo, sussurrai a Napoleone. Chi c'è? Urlò Stefano. Nello stesso tempo udimmo la voce di Susanna. Chiudi quella finestra, Stefano, vieni qui, ho paura. E di nuovo la voce di Stefano. C'è qualcuno in giardino? Devo scendere a vedere chi è? Napoleone si levò e andò sotto la finestra. Monsieur Clarisse, sono io. Guizzò un lampo. Per una frazione di secondo potei vedere la piccola figura magra nella succinta uniforme. Poi fu di nuovo buio pesto. Rimbombò il tuono, il cavallo nitrì agitato e la pioggia scrosciava. Chi c'è? Gridò Stefano tra la pioggia. Generale Buonaparte! Gli gridò Napoleone per risposta. Ma non siete in carcere? Brontolò Stefano. Sono stato rimesso in libertà, disse Napoleone. E che cosa fate dopo la mezzanotte con questo tempo nel nostro giardino, generale? Io balzai in piedi, sollevai il cappotto militare che mi scendeva fino alle caviglie e mi collocai accanto a Napoleone. Siediti ancora e ravvolgiti i piedi nel cappotto, ti prenderai un malanno, mi bisbigliò Napoleone. Ma con chi parlate? Gridò Stefano dall'alto. La pioggia si era fatta meno violenta ora e adesso io potei udire distintamente la sua voce che tremava per la collera. Sta parlando con me, gridai. Stefano, sono io, sono Eugenia. Non pioveva più. Una luna pallidissima, angosciata per la mia compromettente situazione, si affacciò timida fra le nuvole e ci rivelò a Stefano che aveva in capo la berretta da notte. Generale, voi mi dovete una spiegazione, sibilò la berretta da notte. Ma ho l'onore di chiedere la mano della vostra sorella minore, Monsieur Clary, gridò verso l'alto Napoleone. Aveva posato il suo braccio intorno alle mie spalle. Eugenia, vieni subito in casa, comandò Stefano. Dietro di lui apparve la testa di Susanna. I suoi capelli erano pieni di papigliotte di carta e il suo aspetto era perciò piuttosto sgraziato. Buonanotte, carissima. Ci rivedremo domani al banchetto nuziale, disse Napoleone e mi baciò sulle guance. I suoi speroni risuonarono lungo il viottolo ghiaioso. Io scivolai in casa e avevo dimenticato di restituire a Napoleone il suo cappotto. Sull'uscio aperto della sua camera da letto stava ritto Stefano con in mano una candela accesa. Io gli passai davanti in fretta, scalza e ravvolta nel cappotto di Napoleone. Oh, se papà avesse visto una cosa simile! Ringhiò Stefano. In camera nostra Giulia s'era drizzata a sedere sul letto. Ho udito tutto! Devo lavarmi i piedi, sono pieni di terra, dissi. Presi la brocca e versai l'acqua nel catino. Poi mi coricai e distesi il cappotto militare sulla mia coperta. Giulia per poco non arrivava in ritardo all'ufficio di stato civile perché non riuscivamo a trovare i suoi guanti nuovi e mamma afferma che senza guanti non ci si può sposare. Quando mamma era giovane tutti si sposavano in chiesa, ma da quando c'è stata la rivoluzione ormai sono poche le coppie che vanno anche in una chiesa cercando di scovare uno dei pochi parroci che hanno prestato giuramento alla Repubblica. Naturalmente né Giulia né Giuseppe pensano di far questo e mamma da qualche giorno non smette di parlare del suo velo da sposa bianco che ella avrebbe con tanta gioia posato sui capelli di Giulia e della musica, dell'organo che ai suoi tempi non poteva mancare in un matrimonio vero. Per Giulia è stato fatto un abito rosa con pizzi autentici di Bruxelles e delle rose. Stefano, attraverso un suo corrispondente d'affari, ha potuto trovare a Parigi dei guanti rosa e se li è fatti spedire. Ed erano questi guanti che non riuscivamo a trovare. La cerimonia era stata fissata per le 10 del mattino e solo 5 minuti prima delle 10 io trovai i guanti sul letto di Giulia. Dopodiché Giulia si precipitò e nella scia di lei galopparono mamma con i suoi due testimoni. I testimoni di Giulia sono Stefano e lo zio Somì. Lo zio Somì è un fratello di mamma che spunta fuori a tutti i funerali e a tutti i matrimoni della nostra famiglia. All'ufficio di stato civile li aspettavano Giuseppe con i suoi due testimoni, Napoleone e Luciano. Io non avevo avuto il tempo di vestirmi perché ero impegnata nella caccia ai guanti. Mi affacciai alla finestra della nostra camera e gridai a Giulia: Buona fortuna! Ma lei non mi udì. La carrozza era tutta ornata di rose bianche del giardino, ormai quasi sfiorite, e non si sarebbe detto che era una comune vettura d'affitto. Avevo pregato e supplicato Stefano e finalmente lui dal negozio mi portò del raso celeste per un abito nuovo. Poi anche avevo insistito perché Madamigella Lisette, la nostra sarta che fa tutti gli abiti per noi, non tagliasse una gonna troppo ampia. Purtroppo non è riuscita, stretta come le gonne dei modelli di Parigi, e il mio abito è anche serrato alla vita e non sotto il seno come quello di Madame Tallien, nei disegni che la rappresentano come Madame de Thermidor, la dea della rivoluzione. Tuttavia, io trovo che il mio abito è grazioso e mi sembra di essere la regina di Saba quando si era tutta adornata per far colpo su Re Salomone. Ma poi, in fin dei conti, sono anch'io una fidanzata, anche se finora Stefano sembri considerare il mio fidanzamento nient'altro che come uno schiamazzo notturno. Prima ancora che io fossi veramente pronta, essi arrivarono, voglio dire gli ospiti della festa. Madame Letizia in verde scuro, con i capelli dove non si può ancora trovare la minima traccia di bianco, lisci e pettinati all'indietro e con la crocchia sulla nuca come una contadina. Elisa, massiccia e dipinta come un soldatino di piombo e decorata di tutti i nastri che è riuscita ad ottenere da Stefano a furia di blandizie durante le ultime settimane. Poletti, invece, una delicata figurina d'avorio intagliato con l'abito di mussola rosa. Sa il cielo come sia riuscita ad indurre Stefano a farle dono di questa modernissima fra le stoffe. Luigi spettinato e visibilmente di pessimo umore, Carolina lavata di fresco e perfino acconciata a dovere, e poi il ragazzo terribile, Gerolamo, che appena arrivato ha chiesto subito da mangiare. Susanna e io abbiamo offerto ai componenti della famiglia Bonaparte, che hanno superato i 14 anni, del liquore, e Madame Letizia ci disse che aveva una sorpresa per tutti noi.